Pablo Picasso, raccontato da Gianluca Nicoletti. Il punto di vista più banale del tipico coatto nei confronti di Picasso è che fa delle opere non realistiche. Ci fu una volta che un signore andò proprio da Picasso e gli disse perché faceva queste sue immagini che nulla avevano a che fare con la realtà, la pittura deve riprodurre la realtà. E Picasso gli disse: mi mostra un esempio, secondo lei, di arte realistica. L'uomo tira fuori una foto della moglie, dice: guarda, questa è arte realistica, fiero. Picasso dice: quindi sua moglie è alta 5 cm, considerato che la foto dell'epoca sarà stata una piccola foto in bianco e nero, dipinta soltanto in tono di grigio, senza braccia, senza gambe. Questo mi porta a riflettere che in realtà il realismo è riferito al supporto in cui si colloca una riproduzione della realtà, è un termine molto relativo. Oggi ci si emoziona per un'immagine che è in un tablet di 10 pollici, anche se è a retina e quindi iperrealistica. In realtà la prova che in tutte le relazioni che oggi noi abbiamo attraverso protesi assolutamente innaturali, come appunto i supporti che ci portano a comunicare in rete, sono perfettamente capaci di emozionarci. Questo dovrebbe far pensare che in realtà non è la riproduzione esatta, la immagine retinica tale quale come la vede il nostro occhio, che dà emozione, che suscita sentimenti nei confronti di un'opera d'arte. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.